Letture di Radio 24. I suoi diagrammi alla base della teoria dell'elettrodinamica quantistica nel 1965 gli valsero il premio Nobel. Ecco come un intelligente ragazzino ebreo di Long Island è diventato il fisico più amato del Novecento. Ascoltiamo un estratto del libro scritto da Lawrence Krauss su Richard Feynman, l'uomo dei quanti. Quando Richard Feynman era ancora un bambino, si poteva immaginare che sarebbe diventato forse il più grande e probabilmente il più amato fisico della seconda metà del Novecento? Non è così chiaro, anche se c'erano segnali premonitori. Era innegabilmente intelligente, aveva un padre affettuoso che gli trasmise l'amore per la conoscenza, incoraggiando la sua naturale curiosità e coltivando la sua mente in ogni modo possibile. E poi aveva il piccolo chimico ed era affascinato dalle radio. Ma queste cose non erano così rare tra i ragazzini intelligenti del suo tempo. Da un certo punto di vista, per alcuni aspetti fondamentali, Richard Feynman era solo un ragazzino ebreo intelligente di Long Island, nato dopo la Prima Guerra Mondiale, non particolarmente atipico. Sicuramente alcuni degli aspetti dell'intuizione sono acquisiti. Questa è la ragione per cui gli studenti di fisica devono esercitarsi e risolvere così tanti problemi. Così apprendono quali modi di affrontare i problemi di solito funzionano e quali no, e intanto acquisiscono nuovi strumenti e tecniche. Ma ci sono caratteristiche dell'intuizione fisica che sicuramente non si possono insegnare, che a un certo punto scattano da sole. L'intuizione di Einstein rimase intatta per 20 anni e lo portò dal suo lavoro epocale sulla relatività speciale al suo risultato più spettacolare, la relatività generale. L'intuizione di Feynman era diversa. Mentre Einstein sviluppò teorie completamente nuove sulla natura, Feynman riuscì a esplorare idee già esistenti da un punto di vista completamente nuovo e solitamente con migliori risultati. L'unico modo in cui riusciva a capire veramente le idee fisiche era arrivarci a modo suo, usando il proprio linguaggio. Ma siccome il suo linguaggio era inventato da lui stesso, il risultato finale a volte era radicalmente diverso dalla visione convenzionale. Come vedremo, Feynman creò la sua propria visione. L'intuizione di Feynman era frutto anche di un duro lavoro e grande fatica. Il suo approccio sistematico e l'accuratezza con cui esaminava i problemi erano già evidenti al liceo, dove registrava i propri progressi su quaderni appositi pieni di tavole di seni e coseni che aveva calcolato, e più tardi nel suo quaderno di analisi, intitolato L'analisi matematica per l'uomo pratico, con estese tavole di integrali che di nuovo aveva calcolato lui stesso. In età adulta avrebbe stupito i suoi interlocutori, proponendo nuovi modi di risolvere un problema o arrivando immediatamente al nocciolo di un problema complesso. Spesso la ragione di queste intuizioni era che a un certo punto, nelle migliaia di pagine di appunti che aveva scritto nel tentativo di capire la natura, Feynman aveva pensato proprio a quel problema e aveva già esplorato non solo una possibile soluzione, ma una serie di diversi modi di risolverlo. Quello che lo rendeva speciale era la sua volontà di esplorare un problema da ogni punto di vista e organizzare accuratamente il suo pensiero finché non aveva esaurito tutte le possibilità. Un prodotto del suo profondo intelletto e della sua instancabile capacità di concentrazione. Forse volontà non è la parola giusta. La parola giusta sarebbe necessità. Feynman aveva bisogno di capire ogni singolo problema che incontrava sul suo cammino. Partendo da zero, risolvendolo a modo suo e spesso, per capire veramente fino in fondo, doveva risolverlo in svariati modi diversi. Nel caso di Feynman, come in molti viaggi epici, l'inizio fu abbastanza semplice. Lui e John Wheeler avevano dimostrato che l'elettromagnetismo classico si poteva riformulare in un modo che coinvolgeva solo le interazioni tra particelle cariche, anche se bisognava considerare interazioni sia in avanti sia all'indietro nel tempo. La sfida successiva fu vedere se questa teoria si poteva accordare con la meccanica quantistica e magari risolvere i problemi matematici più spinosi che si trovavano cercando di realizzare una teoria quantistica dell'elettromagnetismo. L'unico problema era che la loro esotica teoria richiedeva una forma matematica che la meccanica quantistica a quel tempo non poteva trattare. Fu grazie a quelli che oggi tutti i fisici conoscono con il nome di diagrammi di Feynman e all'idea suggeritagli da Wheeler di trattare i positroni come elettroni che si muovono all'indietro nel tempo che Feynman riuscì a elaborare l'elettrodinamica quantistica, o CAD, che spiega un incredibile numero di fenomeni riguardanti l'interazione tra radiazione e materia, partendo dalle interazioni elementari tra elettroni e fotoni e considerando tutte le possibili maniere in cui queste interazioni possono avvenire. La sua intuizione della CAD gli avrebbe fatto assegnare il premio Nobel per la fisica nel 1965. Ma forse la storia che più di tutte cattura il Feynman, che sono arrivato a conoscere scrivendo questo libro, e i principi che hanno guidato la sua vita e hanno finito per guidare anche la natura della fisica che lui produceva, è quella che mi ha raccontato un amico, Barry Barish, che era suo collega al Caltech negli ultimi 20 anni della sua vita. Barry e Feynman vivevano abbastanza vicini e si vedevano spesso. Siccome entrambi abitavano a circa 5 km dall'università, a volte ci andavano a piedi invece di prendere la macchina. A volte insieme, a volte no. Una volta Feynman chiese a Barry che cosa pensasse di una certa casa su una certa strada. Barry non conosceva la casa perché, come molti di noi, aveva un percorso preferito e lo percorreva sia all'andata che al ritorno. Richard, scoprì, faceva esattamente il contrario. Cercava di non percorrere mai la stessa strada due volte. Avete ascoltato la lettura di un estratto del libro L'uomo dei quanti di Lawrence Krauss, che sarà pubblicato sulla rivista Le Scienze in edicola a maggio.